Hadis numero 30 da Abu Thalaba Jurthum bin Nashir, che Allah sia compiaciuto di lui, il quale l'ha appreso dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Disse: in verità Allah l'Altissimo ha reso obbligatori degli adempimenti, perciò non trascurateli. Ha stabilito dei limiti, perciò non oltrepassateli. Ha dichiarato sacre delle cose, perciò non profanatele. E di alcune cose ha taciuto per misericordia nei vostri confronti e non per dimenticanza. Perciò non andatene in cerca. Hadith buono riferito da Ad-Darqutni ed altri.